Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante e il traghettatore, ben trovati. Cominciamo con ricordarvi una storia che abbiamo raccontato da poco. Era dedicata ad un ospedale, all'ospedale Alba Bra, e al progetto di una banca, una piccola banca, la Banca di Chierasco, che aveva rilasciato dei bond etici per finanziare l'ospedale. Bene, volevamo dirvi che ha funzionato e che la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra ha registrato 14 milioni di euro in bond in soli 3 mesi. Per il momento in cui della finanza abbiamo una finanza così critica, davvero una bella notizia. Avvocati per niente, invece, è il titolo di un libro che ha scritto Carlo Giorgi, che è con noi. Buongiorno Carlo Giorgi. Buongiorno. Scritto per Terre di Mezzo Editore, racconta la storia di un'associazione milanese che ha fatto assistenza legale gratuita. Esattamente che storia racconta il libro di Carlo Giorgi? L'associazione di cui parliamo è fatta di avvocati, di giuristi che difendono persone altrimenti difficilmente difendibili. È perché si tratta di persone nullatenenti, è perché i casi sono davvero intricati, quindi persone senza dimora, persone immigrate prive di diritti, famiglie di disabili che hanno visto i loro ragazzi non seguiti. In tutti i casi si trattava di situazioni appunto dove sembrava impossibile affermare dei diritti e invece poi si è arrivati a una vittoria legale, tutto gratuitamente, riscoprendo il gusto della difesa dei più deboli al di là delle parcelle. Ecco, dicevamo, e stavo per chiederti, ma l'hai già spiegato, non si tratta di persone che hanno avuto bisogno di un'assistenza legale per difendersi da accuse o perché hanno commesso dei reati, ma per difenderli invece dalla disuguaglianza o dalla mancata assistenza da parte degli enti pubblici. C'è una storia in particolare che ti ha colpito? Ma guarda, è veramente molto commovente, una storia di diverse famiglie milanesi che hanno dei ragazzi portatori di disabilità, studenti nelle scuole, che si sono viste togliere l'assistenza scolastica e quindi i genitori erano costretti ad andare addirittura a scuola a portare al bagno i figli perché mancava il minimo dell'assistenza necessaria. La causa è stata contro il Ministero dell'Istruzione, era una causa di un Davide contro un Golia, perché queste famiglie appunto erano davvero disarmate rispetto alla decisione dell'istituzione, ma alla fine si è vinta la causa e gli avvocati hanno trovato il modo di dimostrare la necessità e l'assoluto diritto delle famiglie di avere garantita l'istruzione ai propri figli. Ecco, storie di questo tipo dove c'è una vittima che in qualche modo è disarmata di fronte al sistema della legge e che viene però aiutata da avvocati appunto che lo fanno, ripeto, volontariamente, gratuitamente. Avvocati giovani e vecchi di qualsiasi, del nord e del sud, avvocati che hanno una grande sensibilità e che prestano gratuitamente la loro opera, è così? È così, spesso si tratta di professionisti affermati con studi legali di primo ordine che però una parte del loro tempo la dedicano proprio alla cura di casi altrimenti abbandonati. Grazie Carlo Giorgi, il libro vi ricordo si chiama Avvocati per niente ed è edito dal Terre di Mezzo. Restiamo nel campo dei libri, vi suggeriamo un'altra lettura, questa volta meno emozionante ma sicuramente utile. Occhio alle bollette, impariamo a leggerle per tutelarci e risparmiare sui consumi di casa. E il libro è scritto da Mariano Votta. Concludiamo con un'ultima notizia che riguarda invece il mondo degli studenti e dei giovani. Si chiama Gap Year, l'associazione Far del Bene Fa Bene. Questa associazione, l'indirizzo è www.gapyear.it, vi suggerisce alcune esperienze di volontariato internazionale che potete fare in Sud America, in India e in Africa. Gap Year vuol dire anno sabbatico, è un modo per crescere, per fare esperienza, fermando la routine quotidiana e per un anno viaggiare e lavorare nei paesi lontani che hanno bisogno di noi. È tutto per oggi. Ferribot @radio24.it è l'indirizzo a cui potete scrivere per segnalare le vostre iniziative. Vi ricordo di andare sulle pagine Facebook di Ferribot Radio 24 e di cliccare su mi piace. Grazie ad Anita Panizia in redazione e a Paolo Corleoni in regia. A risentirci.